rassegna stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa europea, cioè che tratta di temi europei, ma anche di giornali europei che hanno scritto di noi, dell'Unione Europea, e anche di giornali non europei che lo hanno fatto. Questa settimana iniziamo dalla Frankfurt Allgemeine Zeitung, la cosiddetta FAZ, che è un po' la signora in grigio dei quotidiani tedeschi, è un giornale molto austero, con poche fotografie, però anche molto affidabile, e anche se è su posizioni conservatrici è in generale molto obiettivo. Questa settimana si è occupata, proprio nell'anniversario nel quinto anniversario dell'insediamento di Mario Draghi alla guida della Banca Centrale Europea, che appunto all'incarico Mario Draghi arrivò il 1 novembre del 2011, si è occupata di che cosa sta facendo la BCE, delle scelte recenti e meno recenti di Mario Draghi, e ne ha anche dato un giudizio non proprio favorevole. Scrive la FAZ: i cinque saggi dell'economia tedesca, cioè gli esperti che consigliano il governo e il Parlamento di Berlino sulle questioni economiche e politiche, hanno criticato, e non sarebbe una novità in realtà, la politica monetaria della BCE di Mario Draghi, sostenendo che è espansiva in maniera destabilizzante e non spinge abbastanza a fare riforme. Parliamo naturalmente del gigantesco quantitative easing deciso da Mario Draghi. Le critiche sono contenute in un rapporto che appunto la FAZ ha anticipato, e dove ci sono tantissimi riferimenti anche a questioni collegate, soprattutto per quanto riguarda i rapporti tra la Germania e gli altri paesi, ma si toccano anche altri temi importanti come la Brexit. Si legge, per esempio, con la Brexit e l'affermarsi dei partiti populisti in tutta Europa, senza la disponibilità a riforme fondamentali, l'efficienza economica di lungo periodo dell'Unione Europea non può essere assicurata. Questo è il monito dei saggi. E tra l'altro viene anche abbassata leggermente la stima della crescita della Germania, che è comunque un invidiabile 1,9%, 1,3% rispetto all'1,9%. L'eurozona dovrebbe crescere un pochino di più, ma è tutto un po' da vedere, perché come sappiamo bene noi italiani, Queste stime variano di mese in mese. La Süddeutsche Zeitung, che invece è un quotidiano altrettanto importante, direi, della Germania, ma più dichiaratamente di posizione di centrosinistra, è tornata sull'argomento intervistando Sabine Lautenschläger, che è membro del comitato esecutivo della BCE, che in questo caso si è espressa positivamente su una decisione presa dalle banche di aumentare le commissioni, e quindi diciamo che è stato come un beneplacito in qualche modo della BCE, anche se nessuno aveva chiesto il permesso, nessuna delle banche tedesche aveva chiesto il permesso per fare questi aumenti. Ha detto Lautenschläger alla Süddeutsche Zeitung: credo che abbiano bisogno di un prezzo equo per i servizi nel settore bancario, così come in qualsiasi altro settore. In Germania infatti c'erano state polemiche da parte dei clienti per l'aumento di queste commissioni. Naturalmente il tema si lega a quello dei bassi tassi in questo momento, che hanno ridotto di molto i margini delle banche, che quindi in qualche modo cercano di rifarsi su altri fronti. Una dichiarazione potenzialmente importante, con delle conseguenze anche gravi potremmo dire, è quella invece rilasciata dal ministro degli esteri di turco Mevlüt Cavusoglu a un altro quotidiano di lingua tedesca, questa volta la Neue Zürcher Zeitung, che è un quotidiano svizzero, forse il più importante quotidiano svizzero di Zurigo, che ha detto: non aspetteremo fino alla fine dell'anno per sospendere l'accordo con l'Unione Europea sui migranti se non verrà concessa la liberalizzazione dei visti Schengen per i cittadini turchi. La nostra pazienza sta finendo, e ha detto appunto senza mezzi termini durante una visita in Svizzera il ministro turco degli esteri. Questo è un tema che ci portiamo anche in questo caso ci portiamo avanti da tanti mesi, perché tra l'Unione Europea e la Turchia si parlava appunto di rendere più facile i visti per i cittadini turchi per entrare nell'Unione Europea. Poi c'è stato il fallito golpe di luglio, poi c'è stato tutta la poco chiara situazione geopolitica che la Turchia ha assunto nel conflitto con la Siria, poi ci sono state le polemiche su come vengono respinti o non respinti i migranti ai confini della Turchia, che ha ricevuto molti fondi europei per esplicito impegno della cancelliera Angela Merkel per gestire questa situazione. Insomma, il negoziato su questo tema dei visti è fermo e la Turchia torna un po' a rilanciare questa sorta di ricatto. Se voi non ci concedete questo, noi non terremo fede all'accordo sui migranti. A proposito di accordi e di rivolte, diciamo, dei cittadini, quando, come nel caso della Germania, per le commissioni più alte delle banche, passiamo in Francia, perché questo è un altro tema che in realtà molti pensano che dovrebbe essere regolato a livello europeo e non lo è, e parliamo della privacy dei dati e di come vengono gestiti. Ricorderete tutti anche le tantissime polemiche che ci sono state, ci sono e ci saranno. E che vengono dagli Stati Uniti su come i colossi del web come Facebook, Google o altri social network, che hanno la possibilità concreta di raccogliere dati su tutti noi che li utilizziamo, come poi usano questi dati. E adesso la polemica si è spostata in Francia e diventa un tema europeo molto forte, perché in Francia è polemica, scrive Le Figaro, sul progetto del governo di costituire un unico database che contenga i dati personali e, pensate, biometrici di 60 milioni di francesi. È stato emesso un decreto a cavallo di ogni santi, e qui così capiamo che non è solo una cattiva abitudine italiana quella di magari far passare delle misure quando ci sono ponti o vacanze, nella speranza che passino un pochino sotto silenzio. Ecco, questo decreto prevederebbe la creazione di questo database chiamato TESS, che dovrebbe contenere dati personali dei cittadini, dati personali come nome, cognome, luogo di nascita, sesso, colore degli occhi, altezza, immagine digitalizzata del viso e impronte digitali, indipendentemente dalla fedina penale dei cittadini. Sul terremoto, come potete immaginare, tutti i giornali europei e del mondo, il terremoto che ha colpito domenica mattina alle 7:40 di domenica scorsa il centro Italia, in particolare le Marche e l'Umbria, ma che si è sentito in molte più regioni, ha colpito tantissimo anche i giornali, e la maggior parte di loro, dal New York Times al Telegraph inglese alla Vanguardia in Spagna, hanno pubblicato la foto della Basilica di Norcia, di San Benedetto a Norcia, crollata nel terremoto. Un tema molto importante, visto che abbiamo accennato alla Brexit prima, lo hanno trattato tutti i giornali inglesi, ma del resto anche quelli italiani e non solo, ed è questa decisione dell'alta corte britannica che non sarà possibile tecnicamente, giuridicamente, che il Parlamento voti per la Brexit. Questo sembra proprio solo un primo round legale, perché i deputati e i Lord che hanno fatto campagna a favore della permanenza nell'Unione Europea vorrebbero in effetti non tanto un voto sull'articolo 50, quello che prevede la Brexit, appunto la richiesta di uscire dall'Unione Europea, quanto sulla strategia negoziale che finora la Premier Theresa May non ha dettagliato. Passiamo a altri argomenti. Un altro, abbiamo detto, dei partiti populisti che hanno guadagnato spazio, consenso in tutta Europa, anche in Italia naturalmente. E Internazionale traduce un articolo apparso su El Diario che parla della resa incondizionata dei socialisti spagnoli. L'avrete seguito, il tema è quello della Spagna, che era andata due volte a elezioni politiche perché non si riusciva a trovare una maggioranza dopo le elezioni. Si è rischiato anche una seconda tornata di elezioni anticipate, poi si è trovato un compromesso perché il Partito Socialista alla fine si è convinto di astenersi da un voto che vedrà di nuovo il Partito Conservatore al governo, e da qui appunto il titolo, la resa incondizionata dei socialisti spagnoli. Un altro articolo interessante, e in questo caso ci riguarda, ma è stato pubblicato dal Guardian nel Regno Unito, è sulle decisioni prese un po' sull'onda di Expo, che era dedicato, ricorderete, al cibo qui a Milano, i programmi per sprecarne sempre di meno. Quindi il titolo: Milano non vuole sprecare il cibo. Secondo il Guardian, il modello Milano potrebbe essere un esempio anche per altre città e altri paesi. La città si occupa di sprechi alimentari già da Expo 2015, ma nel frattempo sono nate molte iniziative nei mercati di quartiere, oltre a varie app per smartphone. Era l'ultima segnalazione per oggi. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.